Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in attesa della cena questa sera della banca, del direttivo della Banca Centrale Europea, domani la decisione, ma un vertice come sempre inizio mese della Banca Centrale Europea che si tinge anche di un po' di polemica. Riportano infatti oggi molti giornali indiscrezioni secondo cui vi sarebbe una specie di fronda all'interno del comitato direttivo della Banca Centrale Europea, fronda che sarebbe capitanata anche dagli esponenti tedeschi, ma non solo. In sostanza, alcuni governatori delle banche centrali nazionali criticherebbero Draghi e gli contesterebbero uno stile di gestione troppo segreto e metodi di comunicazione ondivaghi. Vogliono maggiore collegialità nelle decisioni e, ripeto, già questa sera nella cena informale che tradizionalmente precede la riunione potrebbero emergere queste tensioni, queste frizioni, per essere più precisi. E il tutto nel giorno in cui, o meglio da ieri per essere più precisi, la vigilanza sulle 120 più grandi e principali banche europee è passata alla Banca Centrale Europea. Ora, Francoforte in questo modo copre oltre l'80% delle banche europee dell'area euro come valore. Faccio notare che è un cambio radicale, perché mentre prima le banche più grandi di alcuni dei paesi venivano vigilate dalla Banca Centrale Nazionale, la Banca d'Italia in Italia, la Bundesbank in Germania e via così, adesso la vigilanza unica è il primo tassello per la completa rivoluzione e riforma dell'Unione Bancaria, che comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie. In sostanza, prima noi sapevamo che se una banca aveva problemi, non dico fallisse, ma insomma era vicino al fallimento, la Banca Centrale Nazionale garantiva tutti, restano garantiti comunque i depositi fino a 100.000 euro anche in Italia. Però di fatto nessuna banca falliva veramente, e venivano o fuse o venivano concertate operazioni di fusione e di acquisizioni o concertate operazioni di ricapitalizzazione. Era impossibile che la banca fallisse. Adesso con un nuovo meccanismo verrà ricalcato il modello Cipro, si chiama bail-in, ossia nel caso di un fallimento, di un problema di una banca, in primo luogo vengono chiamati a pagare le conseguenze gli azionisti, gli obbligazionisti e anche in parte i correntisti per la quota sopra i 100.000 euro. A sopportare infatti i costi del salvataggio non sarà più la collettività, la Banca Centrale Nazionale, quindi lo Stato, ma nell'ordine che ricordavo, prima gli azionisti, poi gli obbligazionisti junior in possesso di titoli subordinati, poi quelli senior e poi i correntisti per la parte sopra i 100.000 euro. Solo in seconda battuta, se questo non fosse necessario, arriverebbe l'aiuto esterno, il cosiddetto bailout, e quindi il sostegno pubblico di fatto verso la banca. Tra l'altro a Francoforte è tempo di traslochi, perché i primi 770 dipendenti della BCE si sono già trasferiti nel fine settimana nella nuova sede, che è costata poco, 1,2 miliardi di dollari, mi sembra una cifra folle, e comunque altri 2.000 dipendenti si trasferiranno lì nella nuova struttura nel corso del mese. Sono due torri collegate fra loro da vignaristici passaggi sospesi e sono pronte, sono 185 metri d'altezza dell'edificio principale, fanno già parte della skyline Manhattan, come i francofortesi chiamano il loro piccolo centro finanziario. Molto alto il grattacielo, speriamo che non renda sempre molto distanti dalle esigenze reali delle volte i membri della Banca Centrale Europea stessa. Per quello che riguarda la borsa invece, oggi bene Milano, la migliore tra le borse europee, più 2,70%, Parigi più 1,90%, Francoforte più 1,60%, Londra più 1%, l'America più 0,40%. Molto forte Monte dei Paschi, ne parleremo, più 6,50%. In questo momento il titolo che, pur in calo da quando sono usciti gli stress test, vicino ai 70 centesimi di euro per azione. In questo modo avrebbe perso, tra virgolette, solo il 30% dell'uscita degli stress test, aveva perso in realtà il 40% nel corso della settimana scorsa, il 40%. Parleremo anche di Monte dei Paschi, perché alle 18, se confermato l'orario, dovrebbe iniziare il Consiglio di Amministrazione che dovrebbe varare un aumento di capitale più grande di quello richiesto dagli stress test, 2,7 miliardi di euro contro i 2,1 richiesti, e che dovrebbe completarsi la prossima estate. Anche questo sarà un nostro tema. E poi, come sempre, al di là della borsa, io citavo il Monte dei Paschi, ma oggi è in netto recupero anche Iux più 5%, Azimut più 4,70, Popolare di Milano più 4, Unicredit più 3,70 come Mediaset e Finmeccanica, Telecom più 3 come Atlantia, Mediobanca, il Banco Popolare e anche Enel. Di negativo c'è solo Autogrill meno 2% e G-Tech meno 0,80%. In apertura invece torneremo sullo scontro tra Jean-Claude Juncker, e quindi il neo presidente della Commissione Europea, e il nostro premier Matteo Renzi, ma anche oggi Juncker nella sua dichiarazione ha coinvolto anche il numero uno britannico David Cameron. Ieri l'affondo di Juncker, la replica del premier Renzi, e poi oggi di nuovo una tra virgolette contro replica di Juncker. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Qualcuno mi chiede conferma, ripeto, 1 miliardo e 200 milioni di euro è costata la sede di dollari, scusatemi, vabbè, ho capito, non è che mi sento meglio, diciamo 1 miliardo di euro è costata la nuova sede della BCE, i due grattacieli della Banca Centrale Europea. Andiamo avanti per quello che riguarda le altre notizie in breve. Oggi il petrolio è sempre sotto i 77 dollari al barile, pensate che da inizio anno ha perso un 22% del valore il petrolio, e questo a noi conforta, perché vuol dire che se anche l'euro dovesse continuare a indebolirsi sul dollaro, oggi di nuovo 1,2470, non avremo una conseguenza così negativa sulla bolletta energetica, mentre avremo una conseguenza positiva sulle nostre esportazioni. Scende ai minimi anche l'oro, ai minimi dal 2010, a 1151 dollari l'oncia, come conseguenza dell'aumento del dollaro. Quando il dollaro cresce, di sotto l'oro cala, e anche un possibile rialzo dei tassi di interesse americani. Chi invece continua a perdere terreno sia sull'euro che sul dollaro è il rublo russo. Siamo ormai a 56,36 rubli per un euro e 44,98 per un dollaro. Del risultato delle elezioni americane di midterm, di metà mandato, avete già ampiamente avuto nota e cronaca dai nostri GR24. L'America, insomma, ha tra virgolette sconfessato Obama, la destra conquista anche il congresso, quindi i repubblicani conquistano il congresso dopo 8 anni, con congresso e senato assieme. Il senato conta 52 seggi repubblicani e 45 democratici, alla camera la maggioranza repubblicana è ancora più netta, 243 seggi contro 175. Buoni dati dall'economia però che arrivano ancora dall'America. Il settore privato nel mese di ottobre ha creato 230.000 nuovi posti di lavoro, un dato superiore anche alle attese degli analisti. Veniamo all'Italia. Il governo, come sapete, ha chiesto la fiducia per il decreto sblocca Italia. Vi è stato poi oggi un vertice tra il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro dell'Economia Padoan e il Ministro alla Giustizia Orlandi sulla riforma fiscale, e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi sulla riforma fiscale, ma anche col team economico del Ministero dell'Economia e Finanze e di Palazzo Chigi. Erano presenti anche il Sottosegretario Del Rio e il Sottosegretario Casero. E poi sulla legge di stabilità il sottosegretario economia Zanetti ha detto: attenzione, all'interno del governo c'è un'attenzione rilevante al tema della tassazione dei fondi pensioni, potremmo trovare una soluzione, ma serve una soluzione per tutti, no a cittadini di serie A e cittadini di serie B. Oggi sentito invece anche sulla finanziaria di nuovo il presidente Confindustria Squinzi, che a margine dell'ECMA, il Salone Mondiale dedicato al ciclo e al motociclo, ha detto: nella finanziaria vi sono molti elementi positivi, ma anche delle criticità che crediamo vadano prese in considerazione. Poi la CGA di Mestre, in un'indagine, sostiene che il TFR in busta paga sarà un flop, o meglio, potrebbe essere un flop, perché l'aumento di carico fiscale non renderebbe appetibile anticipare il TFR in busta paga, visto che va a collocarsi nella parte più alta dell'aliquota fiscale, contrariamente a quella che la tassazione invece normalmente. Per quello che riguarda invece la pensione di Raffaele Bonanni, è in grosso imbarazzo, ricorderete gli oltre 8.000 euro di pensione come conseguenza di continui aumenti di stipendio da 80.000 a 100.000 euro, li abbiamo raccontati tutti, per quello che riguarda l'ex segretario della CISL, e poi anno per anno continuamente di stipendio che poi portano la pensione, quando va in pensione Bonanni, ad essere oltre 8.000 euro lordi. Ha detto il neo segretario Anna Maria Furlan: quella della pensione di Bonanni è una questione che stiamo verificando, abbiamo noi per primi a cuore la chiarezza. E a domanda se l'ex leader CISL ha sbagliato, la Furlan ha risposto: se qualcuno ha sbagliato si prenderà le sue responsabilità. Sì, io adesso poi, se volete, vi racconto anche l'incremento di salario di Bonanni. Non è solo la pensione che becca l'ex segretario della CISL, ripeto, è ancora più misterioso, ingiustificato il continuo aumento di stipendio nel corso degli anni mentre divampava la crisi occupazionale. Nessuno dice che il segretario della CISL debba essere pagato, e già prevede la nomina a segretario uno scatto di 30.000 euro. Poi abbiamo raccontato anno per anno i continui aumenti, più 20, più 30% della sua retribuzione. Ora bisogna capire in base a che cosa. Allora, i dati del Ministero dell'Economia e Finanze sulle entrate fiscali: nel periodo gennaio-settembre le entrate tributarie erariali sono rimaste ferme, più 0,1 a 290 milioni di euro. Aumenta il gettito dell'IVA nei primi 9 mesi, 2 miliardi in più. Dalla lotta all'evasione, dice il Ministero dell'Economia e Finanze, le entrate tributarie derivanti dall'attività di accertamento e controllo hanno segnalato una crescita del 14,5%, cioè 760 milioni di euro in più nei primi 9 mesi. Il gettito IRPEF invece nei primi 9 mesi dell'anno è calato dello 0,2%. Una decisione che riguarda il trasporto su ferrovia. Perché? Perché il pedaggio per l'uso della rete ferroviaria ad alta velocità scende, come conseguenza della delibera presa dall'autorità dei trasporti, scende a 8,2 euro al chilometro treno. Il costo del pedaggio in precedenza era fissato a 12,81 euro per il 2014 e 13 euro per il 2015. È una riduzione del 36%. Per quest'anno, del 37% per l'anno prossimo. E questo avvantaggia tutti, sono due gli operatori, Trenitalia da un lato, ma anche e soprattutto NTV Italia. Allora, un altro storico, molti mi chiedono conferma, sì, la Dainese, un altro storico marchio del Made in Italy, non trasloca completamente, ma insomma l'80% della Dainese è stato ceduto per 130 milioni di euro a InvestCorp, che è il fondo di investimento del Bahrain, e ha avuto Mediobanca come advisor. Lo stesso Dainese, che ha fondato il gruppo nel 1972 a Molvena, in provincia di Vicenza, è uno di più in vista nel settore dell'abbigliamento motociclistico, ma non solo. Ha detto Dainese, era estremamente importante trovare il giusto partner in questo momento di grande sviluppo dell'azienda. Il fondatore quindi resta con il 20%, ma insomma la maggioranza assoluta e quindi il controllo va nel Bahrain. Allora, devo leggere due o tre notizie sempre sulla nostra, sui nostri dirigenti della pubblica amministrazione, poi andiamo direttamente al rischio scontro questa sera nella cena informale che della Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Qualcuno ricorderà la polemica, o meglio lo scontro che abbiamo avuto in diretta col presidente dell'Assemblea regionale siciliana, del Parlamento siciliano, Giovanni Ardizzone. Allora, lui ci aveva garantito che le cose sarebbero cambiate. A luglio ha fissato a 240.000 euro annuo il tetto per le retribuzioni dei dirigenti dell'Assemblea regionale siciliana. Però fino a fine anno gli stipendi di 7 dirigenti dell'ARS resteranno per la buona parte sopra il tetto. Ed è la stessa amministrazione del Parlamento per la prima volta che pubblica i compensi dei super burocrati. E quindi scopriamo che Eugenio Consoli, direttore dell'ufficio affari europei della regione, dichiara 344.000 euro l'anno. Dietro di lui a 340.000 il vice segretario generale Mario Di Piazza, il direttore dell'ufficio bilancio Francesco Aiello, il direttore del servizio studi Laura Salamone e il direttore della biblioteca Antonio della biblioteca, pure a 379.000 euro. E il direttore della biblioteca Antonio Purpura. Ora già mi sembrano cifre molto elevate per gli altri, visto che stai ragionando della regione Sicilia che ha un buco di bilancio stratosferico, anzi stai ragionando del parlamentino della regione Sicilia. Il parlamentino non piace, il Parlamento, perché non Parlamento, ma frega nulla, io sarei per eliminare tutte le regioni a statuto speciale, figuratevi. Però voglio dire, ma il direttore della biblioteca fondamentale, immagino, biblioteca, prende 340.000 euro? Sopra i 240.000 euro, almeno fino alla fine del 2014, c'è anche il direttore del servizio informatico Umberto Garofalo, 280.000 euro, e il direttore del servizio di questura Antonio Tomasello, 260.000. Io non ho le competenze per giudicare se questi lavori, quanto importanti siano questi lavori, mi sembrano tutte delle cifre altissime, visto quello che si chiede poi ai manager di società pubbliche che hanno un compito e anche degli oneri non da poco. Pensiamo solo agli oneri di responsabilità legale, per cui mi sembra veramente una cifra così ingiustificata. Però la cosa più bella è un'altra, che tre di loro, posso dirlo senza vergogna, e sono Francesco Aiello, Eugenio Consoli e Antonio Purpura. Proprio quello che, ma proprio il Purpura che è il direttore della biblioteca, un mito. Lo cerchiamo Purpura, senza sto Purpura lo cerchiamo. Dicevo, hanno fatto ricorso, hanno detto che il decreto del Consiglio di Presidenza, hanno impugnato il provvedimento, si configura quale atto unilaterale, arbitrario, illegittimo, discriminatorio e fortemente lesivo dei diritti derivanti dalle norme e dai principi generali relativi al pubblico impiego e dalla disciplina generale in tema di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana. Hanno chiesto al Presidente di revocare spontaneamente il suddetto illegittimo provvedimento, ripristinando il trattamento precedente, restando comunque impregiudicato il risarcimento di ogni maggiore eventuale danno, nonché il ricorso presso le opportune sedi di giustizia in caso di mancato accoglimento della diffida. Quindi non solo beccano una marea di soldi, non solo non accettano la riduzione a 240.000 euro di uno stipendio, dico, per fare a partire dal responsabile della biblioteca, ma ci costeranno anche dei soldi, perché questi ricorsi, se non verranno accettati, finiranno nei ricorsi ordinari della giustizia. E la cosa curiosa è che il neo segretario generale, quello che è il più alto in grado di tutti loro, Fabrizio Scimè, non ha protestato e si è accontentato, si fa per dire, solo di quei due famosi 240.000 euro. Quindi complimenti a Francesco Aiello e Eugenio Consoli, quindi nell'ordine, ma non è la gogna, io sono direttore dell'ufficio affari europei, che notoriamente la Sicilia è bravissima nel spendere i soldi europei, e sarebbe anche importante capire quanto costa la sede a Bruxelles. Direttore dell'ufficio affari europei, 344.000 euro sono giusti, sono dovuti, non me li potete toccare. Bene anche Eugenio Consoli, eppure lui, scusatemi, Eugenio Consoli, Aiello è, lo sbaglio, è consule, è l'ufficio affari europei, e invece Aiello è il direttore dell'ufficio bilanci, e bene anche al direttore della biblioteca Antonio Purpura. Ripeto, la motivazione di quelle così tranchant che non si possono respingere si configura quale atto unilaterale, voglio vedere, mica l'avete proposto voi, arbitrario, illegittimo, discriminatorio, fortemente lesivo dei diritti derivanti dalle norme, dei principi generali relativi al pubblico impiego e dalla disciplina generale in tema di trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana. Tarapia Tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in quattro, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribale con Fadina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col Tarapia Tapioco. Purtroppo la supercazzola arriva agli italiani. Comunque, chiudiamo con Lecce, perché poi vorrei andare alla BCE. Allora, i premi ai dirigenti del Comune di Lecce. Per l'anno 2013 hanno rinunciato sia ai premi di produzione, in nome del patto per Lecce, ma non è detto che capiterà la stessa cosa nel 2014. I 18 dirigenti del Comune di Lecce risultano tra i più pagati d'Italia nel rapporto con la popolazione residente, ma non intendono contribuire alla spending review, perché considerano anche loro, fanno scuola gli Aiello, i Consoli, i Purpura. Beh, il sindacato su questo non ha niente da dire, no? Una bella manifestazione su questo, no, chiedo. Comunque, dicevo, anche i dirigenti del Comune di Lecce considerano i loro stipendi, i loro bonus per il raggiungimento obiettivo, giuste ricompense per i risultati raggiunti. È vero che le cifre si sono ridotte, però tra premi e stipendi la cifra complessiva resta alta: 1.825.000 euro pagati nel 2013 per le attività del 2012 per 12 dirigenti, sono stipendi e premi, ma mi sembra tanto. Il segretario generale Vincenzo Specchia guadagna 143.000 euro lordi, il capo di gabinetto del sindaco Maria Luisa De Salvo 140.000 euro pure, 134.000 euro pure lei. Non posso continuare. Claudia Branca, lavori pubblici 120, Maurizio Guido, edilizia scolastica 100.000, e via così. Poi c'è un caso a parte, ma questo, diciamo, sconfina dalla cattiva gestione della cosa pubblica, perché è quello di Giuseppe Naccarelli, che secondo il Tribunale di Lecce i premi se li ha assegnati a volontà grazie all'emissione dei BOC. I BOC sono i buoni, sono i bot dei comuni, e per quel motivo è stato condannato a 5 anni e 6 mesi per peculato, chiaramente sospeso. Voi pensate che gli abbiano levato il premio? No, gli è rimasto uno stipendio residuale di 34.000 euro con un tanto di premio da 9.000 euro. Dai, meteo, perché sennò l'umore sta diventando come quello del tempo fuori in tutta Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, c'è chi dice, però lei è strabico, usa altri termini sostanzialmente, parla sempre del sud e lo mette alla berlina. No, guardi, abbiamo fatto le stesse analisi, mi sembra eccessivo, abbiamo raccontato le stesse cattive abitudini nell'utilizzo del denaro pubblico anche per quello che riguarda Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia Romagna. Non abbiamo risparmiato Liguria, nessuna regione, in base alle notizie che reperiamo. È vero che, e questo me lo lasci dire, a fronte di una cattiva gestione complessiva ci sono regioni che si segnalano per trattamenti assurdi. Penso alla Calabria, penso alla Sicilia che ci dà sempre tantissimo materiale, penso in alcuni casi anche alla Campania, ma non è che ci siano solo loro. Noi andiamo laddove troviamo le notizie. Invece non mi scrive poi, secondo me un ascoltatore, è altissimo anche il suo stipendio, o meglio lo stipendio che lei prende per fare chiacchiere da bar senza soluzioni. Guardi, una piccola differenza, lei può pensarla come vuole, ci mancherebbe. La differenza è che il mio stipendio viene erogato da un soggetto privato che decide quanto pagarmi, uno contratta, mi può licenziare, non licenziare, e poi vediamo. Gli stipendi che ho ricordato, i premi ai dirigenti leccesi, piuttosto che gli stipendi da 340.000 euro per il responsabile della biblioteca del Parlamentino siciliano, li paghiamo tutti noi, li paga anche lei, quindi attento, forse un po' di confusione tra quello che paga il privato e quello che paga il pubblico. Allora, Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles, buonasera, editorialista del Sole 24 Ore per i temi europei, buonasera Adriana. Allora, botta e risposta anche oggi, partiamo da ricostruiamo la vicenda. Ieri il neo presidente della Commissione Europea, Juncker, è tornato, anzi ha detto, attenzione, non accetto che Renzi offenda la Commissione Europea parlando di... descrivendoci come dei tecnocrati e basta. Devo dire al mio caro amico Renzi che non sono il capo di una banda di burocrati, contro la Commissione sento critiche superficiali, meritiamo di meglio. E poi velenoso ha detto, se io e Barroso avessimo ascoltato solo i burocrati, il giudizio sulla legge di bilancio italiana, sulla legge di stabilità italiana sarebbe stato molto diverso, quindi molto peggiore e anche più negativo. Ieri sera la risposta durante l'intervista a Ballarò, molto dura, del premier Matteo Renzi. In Europa ce la stiamo giocando con tanta fatica, non l'abbiamo vinta e non l'abbiamo persa, ma stiamo segnando dei gol, e questa è una novità. È cambiato il clima dell'Italia in Europa. Io non vado in Europa a dire per favore dateci ascolto, siamo l'ultima ruota del carro, siamo la Cenerentola. Io non vado con il cappello in mano. E contemporaneamente non vengo in Italia a dire è tutta colpa dell'Europa, ci stanno massacrando, come fa qualcuno che magari negli anni scorsi ha votato tutte le manovre volute dall'Europa. Io sto cercando di dire una cosa, cari italiani, se siamo seri le riforme le facciamo per i nostri figli, non per Juncker e non per la Merkel. Se siamo seri queste cose le facciamo perché sono giuste, necessarie. Tra l'altro vado in Europa e vado a dire ai signori che stanno a Bruxelles che noi siamo l'Italia. Se non c'era l'Italia non c'era questa Europa. Io rappresento un popolo, un paese, una nazione che ha diritto ad avere rispetto. Non chiedo rispetto, lo pretendo. Il rispetto è per gli italiani, che è una cosa un pochino più grande. Gli italiani sono quel popolo che ha fatto l'Europa. Aggiungo, ogni anno noi contribuiamo alle casse dell'Europa con 20 miliardi di euro e torniamo a prenderne 10-11. Talvolta per colpa nostra, perché non sfruttiamo bene tutti i fondi europei e stiamo iniziando a farlo. Dall'altro però c'è anche un fatto oggettivo, noi siamo un paese che contribuisce più di quello che prende. Allora con questo spirito io non vado a Bruxelles a farmi spiegare che cosa devo fare. Questo è il punto che ho cercato di spiegare prima a Barroso e adesso a Juncker. E oggi la controreplica di Juncker, che dice non accetterò mai critiche ingiustificate da qualunque parte vengano, non mi tratterrò, reagirò sempre alle critiche di tutti, non ho nessun problema con Renzi, lo apprezzo molto, casomai è Cameron che ha problemi con altri, quindi coinvolge, qui siamo veramente agli stracci, coinvolge il premier britannico David Cameron, cerchiamo di non sabotare la commissione prima che inizi a lavorare, i commissari europei sono politici, non burocrati. Il y a parfois des critiques qui sont adressées à la Commission qui sont injustifiées. Alcune volte vengono fatte delle critiche alla Commissione che sono ingiustificate. Affermare che non si accettano lezioni dai burocrati europei è un modo di descrivere la Commissione che non mi piace. Ieri ho detto che non sono il capo di una banda di burocrati anonimi, ma sono a capo di 28 esponenti politici. Non siamo burocrati, non siamo degli alti funzionari, ma siamo esponenti politici. Quindi ogni volta che si cerca di smontare la Commissione prima ancora che abbia iniziato a lavorare, io reagirò. Non ho problemi particolari con Renzi, che apprezzo molto, né ho problemi con il signor Cameron. Casomai è il signor Cameron che ha problemi con gli altri primi ministri. Un problema avec les autres premiers ministres. Poi oggi è intervenuto anche Radio 24, lo ascolteremo dopo, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozzi, che si è detto stupito dalla reazione di Juncker. Allora, Adriana Ceretelli, che sta succedendo? Sono tattiche politiche? Perché il discorso di Renzi, devo dire la verità, a mio avviso è un discorso che può avere anche molta presa nell'opinione pubblica. Dice: le riforme le facciamo per noi perché dobbiamo fare per i nostri figli, però basta andare col cappello in mano a Bruxelles, che è la critica che fu fatta soprattutto a Monti e a Letta, e in parte anche, ma lì c'era un governo che ormai si stava disfacendo, al duo Berlusconi-Tremonti, quando insomma ci fu un atteggiamento, ma c'era uno spread a 500, era un altro film, soprattutto a Monti e a Letta. Che sta capitando? Ma direi che non sta capitando niente di particolare. Quello che dice Renzi è una posizione non solo legittima ma più che difendibile, ma il battibecco non è su questo. Il battibecco è nato, come immagino voi saprete, da una domanda che è stata fatta dal leader dei popolari europei, il tedesco Weber, a Juncker durante una sua testimonianza, nella quale gli chiedeva conto appunto del fatto che Renzi all'ultimo vertice europeo aveva prima di entrare fatto delle dichiarazioni sparando contro l'euroburocrazia. Allora naturalmente c'era Barroso alla testa della Commissione europea e Juncker ha risposto per le rime dicendo: io non accetto che mi si tratti come se io fossi alla guida di una gang di burocrati, non sono così, e ha voluto chiarire che la sua Commissione non sarà il tappeto dei governi come è stata per molti aspetti quella di Barroso, ha semplicemente messo i puntini sulle i. Ma non è andata al di là di questo, e anche oggi lui ha detto: io anch'io in passato ho criticato la Commissione, quindi accetto le critiche ma non accetto quelle ingiustificate, cioè che la Commissione sia una banda di burocrati, il che è a sua volta condivisibile, perché non è vero che la Commissione è una banda di burocrati, la Commissione, cioè, sono burocrati, ma sono burocrati che mettono in pratica le leggi, i patti e gli accordi che sono stati negoziati, approvati all'unanimità dei governi e ratificati dai loro parlamenti, come per esempio il patto di stabilità. Quindi entrambi dicono due verità. Perché qualcuno che è negli affari europei da 18 anni come Jean-Claude Juncker dovrebbe essere anche abituato al dibattito, ed è bene che ci sia questo dibattito, e quando dovremmo farlo il dibattito sul ruolo politico della Commissione se non all'inizio del suo mandato? Poi del resto ieri è stato il Presidente Juncker a aprire il dibattito sui rapporti tra politica e tecnocrazia in Europa. E noi abbiamo ribadito che, a nostro modo di vedere, la tecnocrazia è certamente utile, i funzionari a Bruxelles sono in generale di notevole competenza, ma che le decisioni non si fanno in base ad una logica aritmetica, ma si fanno in base ad una logica di impegni politici e di obiettivi comuni. Grazie. Così vogliamo che le leggi di stabilità vengano valutate. Così appunto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Sandro Gozi al microfono di Simone Spezia durante Effetto Giorno. Allora, vedo molti che dicono invece l'Europa dovrebbe fare autocritica per le spese, per come finanza, il racconto che facciamo la settimana scorsa degli sprechi immensi che ci sono in Europa, anche il Parlamento che si trasferisce da Bruxelles a Strasburgo con tutti i vagoni, con tutta la documentazione, abbiamo raccontato di tutto, soldi dati a gruppi che ruttano e suonano il sax, i gufi volanti, 400.000 euro l'anno, però non voglio tornare su questo, e poi non penso, Adriana, che fosse Juncker o che possa essere Juncker la persona che può criticare le spese obiettivamente alte, delle volte ingiustificate, della Commissione europea. Io anche su questo vorrei sfatare un po' certi luoghi comuni. Il bilancio europeo è in tutto meno dell'1% del PIL dell'intera Unione Europea. Sono 140 miliardi l'anno per 28 paesi. Che il Parlamento itinerante faccia degli sprechi, eccetera, però però non dimentichiamo il perché il Parlamento è itinerante. È blindato nella storia dei trattati il fatto che Strasburgo, in quanto città martire delle guerre civili europee, doveva diventare il simbolo e la sede del Parlamento europeo. Questo per accordo unanime è stato blindato nei trattati europei, e quindi così stanno le cose. Allora, sì, vabbè, si possono anche cambiare le maggioranze, certo. si decide all'unanimità che la sede sia una, che avrebbe molto senso, ma finché non si arriva a quello è inutile continuare a urlare contro gli sprechi. Sono degli sprechi organizzati dai governi, non certo dalla Commissione europea né dal Parlamento europeo. Quindi, cioè, io non lo so. Poi anche quello che dice Gozzi ha perfettamente ragione, ma la Commissione fa le sue raccomandazioni, fa le sue proposte, ma anche lì è l'Ecofin e l'Eurogruppo, sono l'Ecofin e l'Eurogruppo, i ministri finanziari dei vari paesi, che decidono su se accettare o meno queste decisioni. Adriana, posso essere malizioso? È più facile prendersela con Juncker e con la Commissione che non con Angela Merkel e altri paesi, o Olanda in questo caso? Nel senso che poi se tu... Hai centrato il punto. Grazie. È esattamente così, nel senso che poi con Barroso era molto comodo strillare contro l'euroburocrazia eccetera, perché tanto nessuno reagiva. Qui invece c'è un presidente che reagisce, cerca di mettere i puntini sulle i, e tra l'altro in questo modo, secondo me, cerca di recuperare il ruolo perduto della Commissione europea, che una volta era centrale nella dinamica dei negoziati europei. E in questo senso proprio anche il governo Renzi, che è un governo europeista, che parla appunto di unione politica, cioè ha delle ambizioni verso un futuro più integrato eccetera, non dovrebbe che essere contento di avere un presidente, diciamo, che non si lascia schiacciare dai governi, ma che tenta di recuperare il vecchio ruolo. Che invece la critica su Barroso, che era il presidente precedente Juncker, che è rimasto schiacciato da quello che diceva la Germania piuttosto che la Francia, e la Commissione non aveva nessun ruolo di mediazione. Esattamente. Non voglio dire corpo intermedio, perché non vanno di moda in Italia in questo periodo, però nessun ruolo di mediazione e di parte terza, prendeva atto e trascriveva, diciamo, e quindi tutta la dinamica si svolgeva nei rapporti di forza tra i singoli paesi, Germania contro Italia, Francia che sta una volta con l'Italia e poi però cerca di agganciarsi sempre alla Germania, e via dicendo. Quindi dice, dovrebbe essere contento Renzi se Juncker rivendica maggiore autonomia all'Unione Europea. Si chiuderà così, secondo te? C'è schermaglie? Io mi auguro che diciamo queste polemiche, che come dicevo sono delle polemiche speciose, perché alla fine entrambi dicono due verità, che si vuole mettere l'un contro l'altra armata, ma entrambi dicono due cose serie. Uno dice l'Italia fa la sua parte, voglio che venga rispettata, quell'altro dice la Commissione fa la sua parte, voglio che venga rispettata e non trattata appunto come uno zerbino. Quindi no, siamo d'accordo, anche i cittadini dell'Unione Europea vogliono essere rispettati, aggiungo io con una facile battuta, e quindi avere non una commissione, ma dei governi che indirizzino anche la commissione, una commissione che eserciti il suo ruolo per un'Europa di maggior crescita e non solo rigore e austerità. Ma hai fatto bene a chiarire il punto, che attenzione, più facile prendersela con Barroso o con Juncker che con Angela Merkel. Grazie, in collegamento con noi da Bruxelles ad Adriana Ceretelli. Adesso c'è il GR24, poi le borse, più 2,60% Milano, più 1,60% Francoforte, più 1,90% Parigi, più 1,30% Londra, più 0,40% l'America, molto forte il Monte dei Paschi oggi, più 6,30%, ma anche UX e Azimut, più 5%, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Shot. e 9 minuti, la borsa, dicevamo, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, più 2,60 gli indici, molto bene Monte dei Paschi, adesso ne parleremo, più 6,30%, resta sotto di un 30% dal valore del titolo prima dell'esito degli stress test. E allora ringrazio per averci raggiunto in collegamento da un lato Salvatore Gazziano, responsabile delle strategie di investimento per Soldi Expert. Sapete che ogni tanto facciamo, invitiamo e facciamo ruotare anche operatori dei mercati finanziari. Buonasera Gazziano. Sì, buonasera. E grazie anche al collega Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che sta seguendo anche per la radio ma soprattutto per il giornale la vicenda Monte dei Paschi. Buonasera Marco. Buonasera a voi. Partiamo da te, alle 18, cioè da pochi minuti, non so se sia già iniziato, obiettivamente le agenzie non hanno battuto nulla, ci sarà è appena iniziato il Consiglio di Amministrazione del Monte dei Paschi, che se abbiamo ben capito dovrebbe varare un aumento di capitale da 2 miliardi e 7, ora gli stress test chiedevano al Monte dei Paschi 2 miliardi e 100, come mai 600 milioni di euro in più? Effettivamente il fabbisogno, come dire, denunciato da BCE di 2 miliardi e 100, come dicevi, è anche vero, però, che i 2 miliardi e 100 sono necessari per arrivare proprio al pelo con i requisiti minimi. Quindi l'impressione è che la banca stia ragionando su una manovra di rafforzamento di un importo superiore per dotarsi, come dire, di un buffer di liquidità sufficiente a muoversi, come dire, liberamente sul mercato. Quindi parliamo di impieghi, parliamo di quella che è l'operatività normale per una banca. Ecco, dal punto di vista di chi parteciperà, visto che già il Monte dei Paschi ha fatto un aumento da 5 miliardi prima dell'estate, tra maggio e giugno, abbiamo avuto la conferma di AXA, che ha il 3,7% della banca, mi sembra oggi di nuovo il numero di Intesa San Paolo Messina ha detto non siamo interessati a consorzi sia sulla Cassa di Risparmio di Genova che sul Monte dei Paschi, però dicevo anche tutti gli altri, soprattutto i soci dei fondi esteri, dovrebbero essere tranquilli tra virgolette? Sì, diciamo che anzitutto una delle comunicazioni che ci si aspetta oggi dal CDA è che il consorzio di garanzia a copertura dell'aumento ci sia. Questo vuol dire che anche nel caso in cui l'aumento sarà coperto quindi da alcune banche d'affari, quindi questo, come dire, il materasso c'è. Per quanto riguarda invece i soci attuali del Monte, dicevi di AXA, che l'altro ieri ha dichiarato che sottoscriverà pro quota, la fondazione non si è ancora espressa, Social 2.5 oggi però dovrebbe partecipare, così come i soci sudamericani con cui è inserita nel patto, anche perché, come già accennavamo nei giorni scorsi, tutti quelli che hanno sottoscritto o sono entrati in occasione dell'ultimo aumento hanno tutto l'interesse a sottoscrivere questo nuovo aumento per non perdere buona parte dell'investimento che hanno fatto. C'è poi il giallo sulla presunta offerta da 10 miliardi di euro della finanziaria di Hong Kong, la NIT Holdings. Perché Monte dei Paschi ha fatto sapere di non aver ricevuto nessuna offerta, la Consob indaga, vuole capire se c'è manipolazione di mercato, ci sono sviluppi? No, non particolari, è possibile che magari ci sia una comunicazione riguardo anche su questo da parte del CDA. Diciamo che l'altro ieri, 48 ore fa, è arrivata questa comunicazione di questa holding cinese, che tra l'altro già si era interessata ad altre banche italiane tipo la Popolare di Spoleto, Banca Marche, un'operazione, diciamo, dai tratti piuttosto incerti, e quantomeno anomalo che sia comunicato stampa a una sconosciuta holding cinese dica di essere pronta a investire 10 miliardi di euro. Allora, grazie intanto Marco Ferrando, questo per quello che riguarda il tema Monte dei Paschi di Siena. Altri titoli oggi: Jux più 5,16%, Azimut più 5, Popolare Milano più 3,90, Finmeccanica più 3,80, Unicredit più 3,70, Mediaset più 3,50, come Telecom Italia, il 3% lo guadagna Atlantia, ma anche Enel e il Banco Popolare, il 2,80 il rialzo della Pop Emilia Romagna, il 2,70 quello di World Duty Free, di Mediobanca e di Buzzi Unice, ma anche CNH Industrial e Tenaris. Chiudiamo con Intesa San Paolo, Mediolanum, ST Microelectronics, Generali, che guadagnano tutte il 2,5%, Unipolsai più 2,40 come A2A e Campari, Luxottica più 2,20, Snam più 2. Di negativo c'è solo Autogrill meno 2,11 e G-Tech che perde lo 0,55%. In recupero oggi le banche, anche il lusso. Volete sapere di Moncler? Moncler no, più 0,20%, ma è ancora ampiamente negativo dopo l'inchiesta di Report. Allora Gazziano, un primo commento complessivo alla seduta, in attesa della cena questa sera di cui parleremo, della Banca Centrale Europea e soprattutto della conferenza stampa di domani. Ok, con la determinazione della CIA ho pensato che, siccome ho letto che sulla vicenda Moncler addirittura c'è una discoteca che ha organizzato una festa a favore di Moncler. Ah sì? Sì, oramai tutto è marketing, anche questo. No, no, la cena che ci interessa, con massimo rispetto per Moncler, è quella di questa sera, la cena informale dei vari governatori delle banche centrali, perché come adesso cercheremo di capire, c'è un po' di maretta su questo. Però la giornata di oggi, prego Graziano. Sì, la giornata di oggi sicuramente è stata caratterizzata, diciamo, da un recupero che ha riportato un po' il mercato, quasi le lancette indietro a lunedì alle 4 del pomeriggio, visto che ieri avevamo perso il 2-2, oggi siamo risaliti del 5-5, ma ancora lunedì era stata una giornata abbastanza negativa. Diciamo che fondamentalmente il mercato ormai quasi da poco più di un mese sta oscillando senza prendere una direzione, tra su e giù, senza, diciamo, denotare un andamento chiaro, e si è sempre in attesa di notizie o positive o negative che diano una tendenza. Ora, diciamo, siamo di nuovo riattaccati al polmone delle banche centrali e delle decisioni che dovrà prendere la BCE tra e Draghi, e se, insomma, adotterà un atteggiamento più da colomba con interventi monetari fondamentalmente per stimolare un'economia che la politica ancora non riesce, evidentemente, soprattutto in Italia, ma non solo, vedendo anche i dati tedeschi, a rianimare. Ecco, lei che movimenti si aspetta nelle prossime sedute? Perché adesso si è lentamente, poi sappiamo che si va verso le festività, manca ancora più di un mese e mezzo. Però lei si attende quello che voi chiamate movimenti comunque trasversali, appunto, che non vanno a cambiare, a mutare l'andamento delle borse, degli indici complessivamente? Ma diciamo che fondamentalmente siamo realmente proprio nelle mani delle decisioni della Banca Centrale, perché come sappiamo bene l'indice italiano è molto forte, il peso dei bancari, e sono quelli che bene o male stanno conducendo le danze da diverse settimane all'insù all'ingiù. Dopo gli stress test, diciamo, c'è stata un po' l'angoscia su alcune banche che persiste, come quella di MPS e Carige, e dall'altra parte anche la paura che alcune banche italiane potessero essere coinvolte in operazioni di aggregazione, quindi era come un po' il ballo della scopa. La paura era che qualcuna andasse in soccorso di MPS, un giorno ci si è spaventati subi, su Intesa, Unicredit. Oggi questo scenario è diradato, quindi le banche italiane hanno in realtà diciamo uno scenario che non è così brutto dal punto di vista dei dati economici, però è indubbio che siano legati alla congiuntura del sistema Italia. In questo momento i profitti da parte del sistema bancario sono ancora più fatti sulla parte finanziaria che su quella degli impieghi, quindi le decisioni di Draghi sono sicuramente ancora quelle che fanno un po' il mercato. D'altra parte abbiamo visto non solo in Italia, ma anche le slide che fanno girare banche d'affari da due anni fanno vedere che gli interventi dei cosiddetti monetari di QE negli Stati Uniti piuttosto che in Giappone, e se si sovrappone un grafico dell'andamento delle borse, hanno lo stesso identico andamento. Quindi in tutto il mondo ci si domanda che cosa succederà se adesso l'America toglierà l'intervento. Adesso abbiamo visto il Giappone questa settimana. Sì, abbiamo però devo dire che i mercati americani stanno reagendo in maniera molto così consapevole, tranquilla, perché come si ricordava qualche settimana fa, Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, ha usato una tecnica da un lato molto morbida, cioè va a ridurre lo stampaggio di dollari a botte di 10 miliardi al mese, ma avvisando i mercati, facendogli capire che non, e avendogli fatto capire che non sarebbe stato uno shock traumatico, ma un percorso ineluttabile, quindi da cui non sarebbe tornata indietro, dando tempo anche alle borse di riassestarsi. Sono d'accordo con lei che sarà fondamentale capire anche il commento domani che accompagnerà la decisione della Banca Centrale Europea a inizio mese. Infatti è tradizione che vi sia la conferenza stampa, e quindi su questo poi si muoveranno le borse. Grazie a Salvatore Graziano per questa analisi, poi vedremo domani che cosa succederà obiettivamente sui mercati. Responsabile strategia di investimento per Soldi Expert. Adesso c'è il traffico, poi appunto la cena, non delle beffe, potrebbe essere una cena in cui vanno i coltelli, quella di questa sera, la cena informale che precede appunto il board, il comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Ascolteremo anche una valutazione fatta dal numero uno di Unicredit, Federico Ghizzoni, su l'atteggiamento che hanno le autorità a partire dalla BCE, ma in generale la Commissione Europea, sulle banche, su come vengono valutate. Allora, mi scrive un ascoltatore: guardi che il quantitative easing, cioè lo stampaggio di moneta, è finito negli Stati Uniti. Sì, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, gli ultimi 10 miliardi se non ricordo male. Abbiamo solo raccontato che la reazione della borsa americana è stata una reazione tutto sommato che ha metabolizzato la fine dello stampaggio di dollari, anche grazie al modo in cui questa operazione è stata condotta dalla Banca Centrale Americana. C'è poi chi continua a scrivermi: lei si basa sui luoghi comuni, sud più canaglia rispetto al nord, guardi gli scandali Mose, Expo. Allora guardi, li abbiamo raccontati con degli approfondimenti sia Mose che Expo ogni volta che c'è un'inchiesta. Ho solo detto che, e abbiamo anche fatto un approfondimento sull'ultimo rapporto della Corte dei Conti che cita anche regioni e non poche del nord. Ho solo detto che poi in molti casi più spunti ci vengono offerti da alcune regioni, non ho detto che siano quelle del nord virtuose. Magari il problema fosse solo di alcune regioni del sud, magari. Federico Ghizzoni, numero uno del amministratore delegato del gruppo Unicredit, ieri durante la celebrazione dei 15 anni della banca ha puntato in maniera esplicita il dito contro le autorità regolamentari europee, quelle che hanno deciso i criteri da applicare per gli stress test, l'EBA in primo luogo, e poi ha detto bisogna rivedere il Financial Stability Board, il Comitato per la Stabilità Finanziaria, che è stato creato in un momento di crisi per garantire la stabilità del sistema bancario, ma senza crescita la stabilità del sistema bancario non serve a nulla. Ascoltiamolo al microfono della nostra Livia Zancaner. Mi ha colpito in positivo alcune dichiarazioni che vengono dai regolatori stessi, dall'EBA, post comunicazione del comprehensive assessment, cioè dire che anche le banche che lo hanno passato non possono stare tranquille vuol dire in qualche modo creare qualche confusione nel mercato e dà la sensazione che allora anche lo stress test non è credibile, punto interrogativo, che anche le continue richieste di aumento dei capital ratios non possono essere sottovalutate. Quello che è in discussione a Brisbane non è un problema delle banche, le banche in 4, 5, 6 anni si adatteranno. Tenete presente comunque che se si prende il primo draft che è stato presentato alcune settimane fa, si può calcolare che solo per le banche sistemiche europee, 14 banche, sono circa 300 miliardi di capitale aggiuntivo. Capitale vuol dire non solo capitale, cassa, vuol dire Tier 1, Tier 2, eccetera, eccetera. Quindi la richiesta è molto elevata. Infatti questa liquidità non è che venga stampata con la macchinetta, si sposta la selettività alle banche, può darsi che colpisca l'appetito sui treasury bonds, può darsi che colpisca anche l'appetito sui corporate bonds, perché chiaramente le banche dovranno pagare un tasso di interesse elevato se questi strumenti sono equiparabili a capitale. Cosa succederà alle imprese, cosa succederà all'economia reale è un punto interrogativo da valutare con molta attenzione. Ripeto, le banche troveranno la loro strada, qualche banca ce la farà, qualcun'altra no, ma dobbiamo chiederci questa continua richiesta di capitale se va o meno nella direzione giusta. Forse è giunto anche, qui mi lancio una provocazione, il momento di considerare un attimo la missione dello stesso FSB, nato giustamente momento di crisi per garantire stabilità al sistema bancario, ma oggi la stabilità non serve a nulla se non c'è crescita sostenibile. Quindi forse bisogna ripensare un attimo anche la missione del FSB, combinare stabilità del sistema e crescita delle economie. Alessandro Merli in collegamento con noi da Bruxelles, dove è il corrispondente da Francoforte, scusatemi, dove è il corrispondente del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Sì, buonasera a voi. Allora, faccio una previsione sulla cena di questa sera. Per chi non si fosse perso la prima parte del programma, ci sono parecchie indiscrezioni che i malumori espressi da alcuni governatori delle banche nazionali emergeranno nella cena informale di questa sera. Si parla addirittura di una fronda che chiede una maggiore collegialità, che chiede a Mario Draghi una maggiore collegialità nelle decisioni, e quindi no a uno stile di gestione troppo segreto e metodo di comunicazione ondivaghi. Alessandro. Ma è difficile entrare nel merito di queste accuse perché non ho mai partecipato a nessuna riunione di consiglio né ai lavori della BCE. Mi sembra però di poter dire che in questa fase il dissenso e c'è indubbiamente, che in fondo è normale come avviene in tutte le grandi banche centrali quando ci sono da prendere delle decisioni importanti, si sta un po' personalizzando, cioè si è scelto invece di discutere il merito di questa o dell'altra decisione che dovrà prendere la Banca Centrale Europea, e forse proprio perché si sta avvicinando il momento in cui la BCE dovrà decidere se fare o no il quantitative easing, a questo punto si è scelto questa strada un po' surrettizia di attaccare lo stile di Draghi, di personalizzare le accuse, insomma di cercare di delegittimare, diciamo così, per prendere in prestito un'espressione usata in altri ambiti, la controparte. Questo non è secondo me un modo molto trasparente, né che faccia molto bene alla credibilità della BCE, ma neanche di chi fa trapelare queste informazioni. Sarebbe meglio, credo, confrontarsi sul merito appunto delle scelte che devono essere fatte in un'economia dove l'inflazione sta allo 0,4% invece di essere vicino al 2% come sarebbe l'obiettivo della BCE, e l'economia è in una situazione di sostanziale stagnazione in tutti i paesi, Germania compresa, dove le cose sono nettamente peggiorate nel corso. Senti, ma secondo te c'è qualcuno che può avere un interesse a indebolire Draghi in questo momento? Adesso non voglio tornare sulle posizioni molte volte critiche espresse dalla Bundesbank di Weidmann, ma insomma, oppure è proprio così uno scontento che nasce da diversi ambienti, nel senso il cui prodest, cioè qual è l'obiettivo finale? Perché io sono d'accordo con te che personalizzare tutto sulla figura di Mario Draghi poi va a indebolire lo stesso ruolo del Presidente della BCE. Diciamo che c'è un forte dissenso in Germania su alcune scelte che Draghi ha fatto e su quelle che Draghi, il Consiglio della BCE, a volte all'unanimità, a volte a maggioranza, a volte con una maggioranza in cui la minoranza era di uno, cioè il Presidente della Bundesbank, c'è indubbiamente un dissenso in Germania su alcune di queste scelte, e ci sarà ancora più forte se la BCE dovesse decidere di fare il quantitative easing, quindi di acquistare titoli del debito pubblico. Questo dissenso va dall'unanimità dei media a moltissimi economisti tedeschi e soprattutto a larghi strati della politica tedesca, non solo il partito anti-euro Alternativa per la Germania, che si è molto rafforzato recentemente, ma anche a tutta un'ala del Partito Democristiano del cancelliere Angela Merkel, la quale peraltro in almeno un paio di occasioni recentemente, a fronte di queste diatribe, ha sentito il dovere di schierarsi pubblicamente in appoggio di Draghi. Beh, vedremo allora questa sera che cosa uscirà soprattutto, e poi l'appuntamento, ricordo, ma ne parleremo anche domani a Focus Economia, dopo la conferenza stampa della Banca Centrale Europea, che seguirà appunto la riunione del board della BCE. Grazie Alessandro Merli, in collegamento con noi da Francoforte. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.